giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La campagna elettorale per le amministrative entra nel vivo con la chiusura dei termini per la presentazione delle liste nei 114 municipi al voto in Friuli Venezia Giulia. Nel GR sapremo chi sono i candidati almeno nei comuni più grandi. Complessivamente sono 300.000 gli aventi diritto al voto. Il 16% di turisti in più nei primi tre mesi dell'anno, nei poli sciistici regionali e montagna più 4,4%, nelle città più 11%, nelle località di mare è saliti addirittura del 46%. In una conferenza stampa della regione anche la presentazione della imminente stagione estiva. All'Università di Trieste è attivo da poco un centro di simulazione in cui gli specializzandi imparano a compiere espianti e trapianti di organi, un sistema modernissimo che rappresenta una svolta nella formazione di questo personale sanitario. Lo abbiamo visitato. Nadia Orbinati, Domenico Quirico, Francesca Mannocchi, Marino Sinibaldi, Lucio Caracciolo. Sarebbe lunghissimo l'elenco degli ospiti di Vicino Lontano Premio Terzani che si apre oggi a Udine. Alle 16.30 proprio Caracciolo, direttore di Limes, interverrà su Il Mal d'America. L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto torna dopo 55 anni al Rossetti di Trieste. La regia è dell'argentina Yasmin Sequeira. Il ruolo della maga Alcina è affidato ad Ariella Reggio, che sentiremo nel giornale radio. Lo sport, un gol di success al 92esimo ieri sera ha ridato qualche speranza all'Udinese, che al Friuli ha pareggiato 1-1 contro il Napoli. I friulani ora si preparano ai tre scontri diretti per la salvezza contro Lecce, Empoli e Frosinone. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Daniele Lettige e Antonio Cagliazza. Elezioni. Per le comunali è scaduto a mezzogiorno il termine per la presentazione delle liste. Sono 114 comuni al voto nella nostra regione, quasi 300.000 abitanti aventi diritto. Le elezioni amministrative si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno in concomitanza con le europee. I punti fermi e le questioni che si chiariranno nelle prossime ore con Andrea Vardanega, che è qui in studio con noi. Nel comune più grande, quello di Porcia, il quadro era definito già da ieri. Si sfideranno dunque l'uscente Marco Sartini con una civica alle liste della Lega, di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, e Mario Bianchini, che sarà sostenuto dal PD e da due liste civiche. Il punto interrogativo grosso era a Pasean di Prato, confermato stamattina che il centrodestra andrà diviso. Il sindaco uscente Andrea Pozzo ha infatti presentato una propria civica e la lista di Forza Italia, che lo sosterranno verso la corsa al terzo mandato. Alla sua si contrappone la candidatura di Giuli Peressini con la lista della Lega e tre civiche. Sul fronte opposto Enzo Cattaruzzi con quattro liste civiche. A Campo Formido, altro punto che doveva essere chiarito e si è chiarito nelle ultime ore, è in corsa la sindaca uscente Erika Furlani con la Lega e due liste civiche. Sarà sfidata dal solo Massimo Petri, che guida una coalizione di quattro liste senza simboli di partito. Il centrodestra va diviso anche a Grado: da un lato Giovanni Battista Bredeon con Fratelli d'Italia e due civiche, dall'altro c'è Roberto Marin con Forza Italia, la Lega e un'altra civica. Proverà ad approfittarne Giuseppe Corbatto per il centrosinistra, per lui tre liste civiche. Il comune più grosso dove il centrosinistra invece difende la poltrona di sindaco è quello di Staranzano. Ci proverà Marco Fragiacomo, che guida una compagine formata dal PD e da tre liste civiche. Lo sfida Giuliano Venudo, sostenuto dalla Lega, da Noi Moderati, da Forza Italia e da una lista civica, e anche Luciana Soldà con una propria formazione senza simboli di partito. Il centrodestra invece va unito con l'uscente Dennis Lodolo a Pozzuolo del Friuli, a sfidarlo Gabriele Bressan con due civiche. È ancora vuota invece sul sito della regione, la aggiorniamo in questo momento. Sì, te lo confermo, ancora vuota la casella di Gradisca di Sonzo, il sito della regione che raccoglie tutte le candidature. Abbiamo contattato gli uffici poco fa, i candidati dovrebbero comunque essere i tre che si sapevano già da prima: Alessandro Pagotto, che punta a difendere la carica tenuta per due mandati dalla centrosinistra e dall'Inda Tomas Sinsic, lo sfida Beniamino Ursic per il centrodestra e il centrista Claudio Verdimonti. Ancora una notazione per i casi particolari di San Giovanni Natisone e di Remanzacco, qui gli unici candidati candidati a sindaco saranno gli uscenti Carlo Pali e Daniele Briz. Quest'ultima, Daniele Briz, si propone per il terzo mandato grazie alla recente legge che lo consente anche ai sindaci dei comuni tra 1.000 e 15.000 abitanti. Sono abbastanza numerosi i casi in cui c'è un solo candidato alla carica di sindaco e in questo caso servirà un quorum di votanti per garantire l'elezione. Le candidature stanno ancora fluendo sul sito dedicato alla regione, spero alle 14 di dare un quadro totale e completo. Già possibile però una nota statistica di genere: c'è un'assoluta preponderanza di candidati maschi alla carica di sindaco. Per restare ai comuni sopra i 5.000 abitanti, le candidature a primo cittadino pervenute sono 42 e tra questi 42 le donne sono solo 7. Antonio. Grazie ad Andrea Vardanega e noi passiamo alla cronaca. L'omicidio di Bicinicco di sabato sera. Oggi il magistrato potrebbe disporre l'autopsia sul corpo del 43enne Stefano Jurig. L'esame autoptico si svolgerebbe domani. Intanto è reclusa nella sezione femminile del carcere di Trieste con l'accusa di omicidio volontario la 42enne Silvia Comello. Quando l'ho colpito era già morto, forse per un arresto cardiaco per overdose di metadone. Questa è la versione che la 42enne Silvia Comello, in carcere al Coroneo di Trieste per l'omicidio di Stefano Jurig, ha reso alla sua legale, l'avvocato Irene Lenarduzzi, durante un lungo colloquio questa mattina. La donna, che ha confessato il delitto di Bicinicco, utilizzati coltello, forbice e acido muriatico, è ancora in stato confusionale. È convinta, ha detto, di aver sconfitto il male. Vedeva in lui un demone da dover sconfiggere. Il movente, sempre stando alla sua versione dei fatti, non sarebbe dunque da ricercare nella cessione di droga scadente. Prima emetteva suoni e versi strani, poi quando l'ho colpito già non aveva battito, avrebbe dichiarato alla sua legale Comello. Alla luce delle dichiarazioni odierne dell'indagata saranno sempre più determinanti due perizie, quella medico-legale innanzitutto. L'autopsia dovrebbe essere eseguita nelle prossime ore e permetterà di capire il motivo esatto del decesso di Jurig. La difesa di Silvia Comello chiederà inoltre una perizia psichiatrica per comprovare lo stato di salute mentale della donna. Stando a quanto ha riferito alla stampa la responsabile del CERT di Udine, sabato mattina omicida e vittima sarebbero usciti assieme verso mezzogiorno dopo il trattamento. Comello, durante la giornata, avrebbe assunto cocaina. Per domani mattina, in tribunale a Udine, è prevista l'udienza di convalida del fermo dell'indagata. L'avvocato Laura Presot, che assiste l'ex compagna di Jurig, valuterà se costituirsi parte civile nel processo. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Il percorso europeo di Gorizia e Nova Gorizia entra oggi anche nella storia della filatelia. Poste Italiane ha emesso un francobollo dedicato alla convivenza pacifica fra i popoli che riproduce il mosaico pavimentale circolare sorto nel 2024 su piazza della Transalpina a seguito della rimozione dei confini, conseguenza diretta dell'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea, un evento che ha compiuto ormai 20 anni. Il primo annullo del francobollo è stato apposto poco fa dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani, presente in Friuli Venezia Giulia anche per la campagna elettorale, essendo lui capolista di Forza Italia alle elezioni europee. Il francobollo viene emesso a meno di un anno dall'avvio di Go 2025, l'iniziativa che vedrà Nova Gorizia e Gorizia insieme capitale europea della cultura. Tajani si fermerà a Gorizia per qualche ora, nel primo pomeriggio è atteso a l'università, dove si sono formati molti dei funzionari italiani operativi nel servizio diplomatico. Più tardi andrà a Udine per incontrare allo Stadio Friuli gli organizzatori della tappa del Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia. E poco fa, sul tema dei controlli ai confini con la Slovenia, Tajani ha dichiarato quanto segue: dovremo chiedere proroga della sospensione di Schengen a giugno se la situazione rimane quella attuale, ma ci sarà poi un ulteriore rafforzamento del percorso privilegiato che già esiste per i transfrontalieri per muoversi quotidianamente fra Italia e Slovenia. Stamattina ha detto ancora Tajani ha detto di aver parlato di questi argomenti col ministro degli interni Piantedosi. E a Gorizia, appunto, oggi è l'ultima delle due giornate del Festival del Cambiamento, organizzato dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia con lo studio Ambrosetti di Milano. Oltre a Tajani, i protagonisti di oggi sono Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, Gianpietro Massolo, presidente dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Guido Sanguinetti, coordinatore scientifico per l'intelligenza artificiale della SISSA, Luca Bortolussi, direttore del Dipartimento di Matematica, Informatica e Geoscienze dell'Università di Trieste, e Giulio Sapelli, professore di storia economica all'Università di Milano. I lavori saranno dalle 14.30 alle 18 nell'aula magna del Polo Universitario di Gorizia. La Guardia di Finanza di Monfalcone, durante un servizio di vigilanza ai valichi di confine, ha fermato un furgone a Gorizia in via Terza Armata con diversi migranti nascosti a bordo. Gli stranieri, 5 in tutto, di cui 3 donne, erano nascosti in scatoloni sistemati all'interno del mezzo. Nella cabina anteriore l'autista e un passeggero, entrambi cittadini comunitari. I migranti provenienti dallo Sri Lanka hanno raccontato ai poliziotti di aver pagato a sconosciuti 3.500 euro ciascuno e di essere partiti dalla Romania celati all'interno delle scatole poste nel vano di carico. I due presunti passer sono stati rinchiusi, uno nel carcere di Gorizia e uno in quello di Trieste. Ora al turismo, con il bilancio della stagione invernale, in una conferenza stampa con il presidente Fedriga e l'assessore Bini stamattina nel palazzo della Giunta regionale a Trieste. Sono state anche esposte le previsioni per la stagione estiva di quest'anno, in cui le presenze attese sono 6.800.000, al 3,2% in più dell'anno scorso. Sentiamo. Nei primi tre mesi dell'anno cresce del 16% la presenza di turisti in Friuli Venezia Giulia rispetto al 2023. Nei poli sciistici regionali e nella montagna in generale il segno più è del 4,4%, nelle città dell'11,1% e nelle località di mare sale fino al 46%. Oltre 1 milione di ospiti, con clientela italiana che aumenta del 10,9% e quella straniera del 24%, proveniente soprattutto dall'Irlanda, Austria, Spagna, Germania, Stati Uniti e Polonia. Un quadro incoraggiante per l'imminente stagione estiva, dove per esempio a Lignano Sabbiadoro le prenotazioni dall'8 di maggio fino al 18 settembre sono aumentate del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno, con un tasso di occupazione delle camere che raggiunge il 42%, dato in aumento se confrontato con il 37% dell'estate del 2023. Nella località balneare è di una settimana la durata media di una prenotazione e sotto gli ombrelloni sono i turisti austriaci e tedeschi più numerosi, ma nutrita è anche la presenza di ospiti provenienti dal nostro paese. Risultati ottenuti anche grazie alla massiccia campagna promozionale della nostra regione sulle reti televisive nazionali e sui social. Le nuove 7 rotte internazionali dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, come quelle su Parigi, Budapest e Cracovia, agevoleranno gli arrivi di nuovi turisti da realtà che conoscono ancora poco le potenzialità turistiche del Friuli Venezia Giulia. Anche la montagna friulana si attende un'estate con strutture alberghiere e bed and breakfast sold out. Sono oltre 1.000 le proposte tra escursioni, avventure nel bosco, speleologia e attività culturali, senza dimenticare la possibilità di gustare le specialità gastronomiche made in Friuli Venezia Giulia negli 11 rifugi alpini. E per chi vorrà salire in quota seduto comodamente su un seggiolino, dal 1 giugno fino al 1 settembre sarà operativa a Tarvisio la cabinovia del Monte Lussari. Poi, dal 6 luglio, saranno usufruibili gli impianti di Sappada, Selanevea, Piancavallo, Zoncolan e Forni di Sopra. Trieste, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una piaga, è così che Melania Salina, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti del Friuli Venezia Giulia, definisce l'abusivismo nel settore della riabilitazione in cui opera il fisioterapista. L'unico rischio della fisioterapia, aggiunge, è che sia proposta ed eseguita da qualcuno che non è un fisioterapista. Salina invita a prestare molta attenzione alle nozioni scarne, approssimative, che si possono trovare su internet, fornite anche da esperti. Solo chi possiede un titolo di laurea in fisioterapia rilasciato dall'Università Italiana o riconosciuto dal Ministero della Salute è legittimato a svolgere il nostro mestiere, continua la Presidente dell'Ordine, che invita i pazienti a verificare l'iscrizione all'albo dei professionisti sul servizio presente nel sito dei fisioterapisti italiani. Alle 12.44 siamo al tempo, cielo da nuvoloso a coperto sulla regione. Queste le temperature delle 11, a Trieste 17,5 gradi, a Gorizia e Pordenone 16, a Udine 15, a Tolmezzo 14,5 gradi, a Tarvisio 14, a Forni di Sopra 10, a Sappada 8,5, a Piancavallo 8 gradi, sul Monte Zoncolan 5 gradi, sul Monte Lussari 4,5 gradi, sulla costa a Lignano 17 gradi, a Grado 16,5. Le previsioni, oggi pomeriggio cielo in prevalenza coperto con probabili piogge intermittenti, in genere moderate, abbondanti sulle prealpi, possibili rovesci e temporali sparsi, quota neve oltre i 2200 metri circa. Uno sguardo a domani, sulla zona montana cielo variabile, su pianure e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso. Nel pomeriggio, e parliamo di domani, saranno possibili rovesci e temporali sparsi, specie sulla zona montana e pedemontana. Nella serata, sempre di domani, inizierà a soffiare bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, anche sostenuta nella notte. Sicurezza in mare e navigazione da diporto è il tema di una conferenza rivolta a tutti, non solo ad armatori e diportisti, organizzata a Trieste dalla Fondazione Italiana Vela, dalla Federazione Italiana Vela, con il Comune, la Capitaneria di Porto e l'ARPA del Friuli Venezia Giulia, alle 18.30 nella Sala Luttazzi del Magazzino 26. A seguire, alle 21.30 sul Molo Audace, si svolgerà un'esercitazione con sparo dei fuochi a mano e razzi previsti dalle dotazioni di sicurezza nella navigazione da diporto da 2 unità della Capitaneria di Porto. Formare i futuri medici che si occupano di trapianti e la missione del nuovo percorso offerto dagli specializzandi in anestesia e rianimazione dell'Università di Trieste. Siamo stati al nuovo centro di simulazione all'interno dell'ospedale di Cattinara. Con oggi si apre il corso annuale iperspecialistico che permette agli specializzandi di anestesia e rianimazione dell'Università di Trieste di formarsi nell'ambito della donazione d'organi e trapiantologia, con un corso gratuito della durata di 6 ore per 7 sessioni. Questo corso rivoluziona il metodo classico di insegnamento frontale e mette gli specializzandi all'opera grazie a sistemi avanzati di simulazione. Roberto Peressutti è responsabile del Centro Regionale Trapianti. Il progetto è fondamentale perché fino ad ora le scuole di specialità avevano dei programmi di formazione sull'argomento donazione, prelievo e trapianti, diciamo fatte in modo autonomo con attività fondamentalmente di tipo frontale. Invece questo progetto sperimentale promosso dal Centro Nazionale Trapianti, a cui hanno aderito 4 scuole di specialità in Italia, è basato sulla simulazione avanzata, quindi su una modalità di formazione che è molto più efficace e prende spunto da quale tipo di formazione? Quella degli equipaggi degli aerei, la formazione dell'equipaggio in modo da saper gestire le situazioni complesse. Le prove che stanno facendo gli specializzandi oggi sono tutte su casi clinici di soggetti che hanno una grave lesione cerebrale che ne ha compromesso le funzioni vitali, e il team che interviene o all'interno del pronto soccorso o della terapia intensiva di un reparto ospedaliero o anche all'esterno deve essere preparato a lavorare assieme. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia, interviste di Anna Vitaliani. La cultura a Udine da oggi al 12 maggio ritorna vicino lontano. Il tema di quest'anno è Metamorfosi. Più di 100 gli appuntamenti, oltre 200 gli ospiti. Si aprirà con un dibattito sul ruolo dell'Italia nello scenario geopolitico internazionale, il Festival Vicino Lontano di Udine. Ospite il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, per inaugurare una 20ª edizione in cui le guerre saranno il tema di molti incontri. Paola Colombo, curatrice del festival. Limes ha definito guerra grande quella in cui siamo scivolati ormai da diverso tempo. Parleremo di conflitti anche e del modo di raccontarli con la giornalista Francesca Mannocchi, e parleremo di popoli sotto assedio con Paola Caridi, giornalista storica, con Domenico Quirico, pure giornalista e vincitore negli anni passati del premio Terzani, e con uno dei 5 finalisti di quest'anno, lo scrittore bosniaco Damir Ovcina. Si parlerà anche delle prossime elezioni europee. Parleremo dell'enigma delle democrazie in un incontro che sarà moderato da Nicola Gasbarro, che è il presidente del nostro comitato scientifico, proprio per affrontare tutte le tematiche che riguardano questi 4 miliardi di persone che vanno alle urne, e dove solo l'8% della popolazione mondiale vive in una democrazia piena. Momento centrale sarà sabato sera la cerimonia di consegna del premio Terzani alla giornalista irlandese Sally Hayden per la sua inchiesta sui migranti nel Mediterraneo. Sarà presente anche l'artista e dissidente cinese Ai Weiwei, menzione speciale della giuria. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia stasera va in scena l'Orlando Furioso, l'opera di Ludovico Ariosto, mancava dal Politeama Rossetti di Trieste dal lontano 1969, quando l'allestimento fu concepito da Luca Ronconi ed era una pietra miliare nella storia del teatro. Ora dunque il complesso capolavoro di Ariosto torna grazie al Dramma Italiano di Fiume per la regia di Jasmine Sequeira. Lo spettacolo in unica recita stasera alle 20:30 e nel cast spicca Ariella Reggio che interpreta la maga Alcina ed è ora che è lei stessa a parlarci di questa messa in scena e a invitarci al teatro. Sentiamo Ariella Reggio. Insomma, tempo fa mi chiama Giulio VII, che è il nuovo direttore del Dramma Italiano di Fiume, e mi dice: Ariella, verresti a fare un piccolo ruolo qui da noi? Piccolo, grande, non importa, corro, arrivo, Fiume per me rappresenta tantissime cose. Fiume, il Dramma Italiano, compagnia storica, nata, ricordiamolo, dopo la guerra, e era piena di amici che ricordo e che ci sono ancora, attori bravissimi, per cui sono andata felice e ho trovato questo piccolo ruolo, che è il ruolo di una maga. Naturalmente non vi dico tutto, perché è un ruolo che mai avrei potuto pensare di interpretare nella mia vita. E quindi dovete venire a vedere, perché è stata una sorpresa per me e lo sarà anche per voi, spero. Io l'Orlando Furioso me lo ricordavo un mattone che dovevo leggere a scuola, invece qui ho capito che ha scritto delle cose importantissime che, appunto, per fortuna o purtroppo, possono essere anche attuali. Quindi anche il mio ruolo è stato visto con ironia e spero di essere stata all'altezza. Io vi abbraccio, vi aspetto, non vi dico niente sul mio ruolo perché dovete scoprirlo da soli. E il teatro è così, per fortuna è ancora qualcosa dal vivo. Siamo allo sport con il calcio. L'Udinese salva la partita in zona Cesarini. Un gol di Success al secondo minuto di recupero ieri sera ha infatti evitato la sconfitta contro il Napoli al Friuli. Un pareggio, il 18esimo, significa speranza per l'Udinese, che contro il Napoli nel recupero questa volta cambia il destino di una gara. Nel primo tempo l'emozione più forte la dà il ricordo alle 21 e 12 secondi del terremoto che 48 anni fa colpì il Friuli. Le squadre non riescono a creare pericoli, gli uomini di Calzona fanno possesso, l'Udinese ci prova con Samardžić e poi con Bijol. La ripresa si accende con il lampo di Osimhen che al sesto di testa batte Okoye sfruttando il cross dalla destra di Politano. Per Fabio Cannavaro è il momento delle scelte. Davis e Success per cambiare volto ad un attacco, Brenner e Luca spento. I nuovi interpreti entrano subito in scena, Davis impegna il portiere del Napoli e i friulani, spinti dai tifosi, provano a rialzare la testa, a tenere in piedi i compagni, e Okoye che anticipa in uscita Osimhen mentre Samardžić ci prova da calcio d'angolo. A 10 minuti dalla fine la delusione lascia spazio alla speranza dell'Udinese quando viene annullato per fuorigioco il gol del raddoppio ancora di Osimhen. Il pareggio diventa realtà al secondo di recupero grazie all'assist di testa di Christensen che Success controlla e mette alle spalle di Meret per la sua prima rete in questo campionato, quella che porta a -2 l'Udinese dalle quart'ultime, Empoli e Frosinone. Sentiamo il tecnico dell'Udinese, Fabio Cannavaro. Abbiamo incontrato una squadra molto forte, con un atteggiamento che è di grande squadra, che è venuto qua a giocarsi la partita, e sicuramente questo pareggio ha grandissima importanza nell'umore, per come è venuto, per come è stato durante la partita sofferta, quindi sono molto contento di questo. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dal calcio al basket, stasera è in programma il secondo turno dei quarti di finale dai playoff tabellone, che vede impegnate tutte e tre le formazioni regionali. Gioca in casa solo la Old Wild West Udine, che affronta la Juve Cremona dopo aver vinto gara 1 per 95-65. Coach Vertemati chiede ai suoi giocatori di prestare attenzione all'aggressività degli ospiti, capaci di mettere in difficoltà la formazione friulana per quasi tre quarti di partita. Trieste cerca di confermare l'ottima impressione destata domenica, quando la squadra di Christian ha battuto Torino, allenata dal friulano Franco Ciani. Ribaltando il fattore campo, lo staff tecnico punta ad una maggiore continuità in difesa e alla ricerca di tiri buoni senza affrettare i tempi delle conclusioni offensive. L'unica fra le regionali uscita sconfitta da gara 1 è stata la Gesteco Cividale contro Cantù, una delle squadre favorite per la promozione. L'allenatore Pillastrini punta sulla spinta agonistica dei suoi giocatori, sopraffatti due giorni fa dai Brianzoli proprio sul piano dell'aggressività. Tutte e tre le partite iniziano alle 20:30. Si inaugura oggi Arte Sacra Trieste 2024, intitolato quest'anno La spiritualità nell'arte a Trieste, La spiritualità cristiana nell'arte a Trieste. L'evento è promosso da Studium Fidei, associazione culturale presieduta da Monsignor Ettore Malnati. Comprende le espressività creative di una sessantina di artisti che si cimentano con le arti visive, la fotografia, la letteratura e la musica. La presentazione alle 18 nella Sala Xenia a Trieste. Si concluderà oggi a Udine il calendario di eventi aperti alla cittadinanza sul tema della sicurezza. Alle 20:30 nell'aula didattica del comando della Polizia Locale di via Girardini si terrà l'ultimo incontro informativo. Grazie agli interventi degli agenti della sezione operativa della sicurezza cibernetica si approfondirà il tema dei rischi legati alla navigazione online e alla protezione dei dati sensibili. L'assistenza tecnica è stata curata da Mauro Cumin, ha collaborato in redazione Cristina Polselli. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione. Da Daniele Lettige e da Antonio Cajazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.